solamente inutile dire che sono belle, se i pensieri non risolvono i problemi. Occorre stare calmi e lasciare fare i poeti, stare fermi un attimo per stare a guardare quello che succede intorno senza un'emozione. La rabbia, la paura, la tristezza, l'amore, l'insicurezza di reagire senza una motivazione. Poi tentare di scappare da te stesso, reprimere la voglia di successo, magari di sesso, di sesso, di sé. Certo che da stupidi guardare le stelle, guardare il pavimento per sentirsi più in alto. Come dice il vecchio santo, che chi si accontenta gode. Lo vorrei incontrare e chiedergli che droga posso assumere per stare bene un attimo, un minuto soltanto, senza alza male doppio la mattina al suono delle sveglie. Lavorare poi magari mettere su famiglia, è una donna la migliore ma col suo carattere. Alla gente, se ti incazzi allora sì che sono guai, che sembra quasi che non te ne frega niente, ma se ci tieni tu ci tieni veramente, e non ci provi neanche ad essere perfetto, per giudicare solo ciò che piace a te, per non nascondere milioni di difetti, guardi le stelle solo quando te la senti. Maledetto me, maledetto me, maledetto tutta questa sfiga. Maledetto me, maledetto se, maledetto solo se riesco a capirne le ragioni della musica, che c'è musica non è se non c'è nessuno ad ascoltarla. E Valerie Ball ancora senza una ragione, che è come le stelle, sono belle senza troppe logiche. Sì che sono guai, che sembra quasi che non te ne frega niente, ma se ci tieni tu ci tieni veramente, che non ci provi neanche ad essere perfetto, per giudicare solo ciò che piace a te, per non nascondere milioni di difetti, guardi le stelle solo quando te le senti. E forse non è facile guardare le stelle, forse non è facile perché sono le lune e le belle, che a volte poi mi sembra diverso, come se avessi sbagliato, forse stare tutto bene. Sento diverso, come se avessi sbagliato e fosse stato tutto tempo perso. Non è facile guardare le stelle, non è facile.